Insomma, sti esperti dei rap vorrebbero di a me che faccio rime banali e pezzi tutti uguali. Prova. Che culo faccia che c'ha. Geni del suo cazzo, sentite questa. Quando sparate cazzate che non vorrei sentì, te dico sempre sto fatto, lasciame perdere sì. Quando però mi interessa ma non te so a capì, te dico me lo ripeti che sto un po' fatto sì. È la scusa più vecchia del mondo e la usava pure mio nonno. Quando pensi mo' questi che vanno e vorresti dire c'ha sonno. E se mi padre e mi madre non l'hanno mai fatto con me, come giustifico il fatto che me lo faccio con te? C'ho un attimo di panico come un politico. È un classico nel plastico, è un caso critico, lunatico quel minimo che serve per essere mitico. Poi litico coi visitors ma senza vecchier fisico. Ne sa che son misantropo come ogni filantropo. La droga a me non me trasformerà come un licantropo. Mentre m'arrampico su specchi infuocati col peso de catene d'oro 24 carati. Per quel malato che sul prato ha violentato una suora. Per la ragazza che si è chiusa a casa e manco lavora. Per il ragazzo che non torna a casa dopo la scuola. E per la madre che non lo controlla, usiamo la droga. La giustificazione è la giustificazione, e un avvocato strapagato gli darà potere. La giustificazione, sì, la giustificazione, era incapace di intendere e di volere. Quel ragazzo si droga, è uno scandalo, e ha lasciato la scuola, come combatterlo? Dico te mandalo, dammi fratello il vandalo, che se non torna a serio in un'ora gli tira un sandalo. È insindacabile quello che dico, e parlo a nome di ogni fratello ed ogni amico. Ve lo sognate che me ne esco con qualcosa d'antico. Io rappo per la libertà, fratello, non me contraddico. Dico solo che frequento gente che se sfonna, ma al lavoro se fa un bucio de culo della Madonna. E poi la sera se ne va in comitiva, e appena arriva fa una bomba grossa tipo Argentina. Capito, sì? Quale droga di passaggio? Io non la passo e faccio un altro tiro, Roberto Baggio. Però non spaccio, non pippo, né me faccio le pere. Voglio solo dargli forte con ste droghe leggere. Per quel malato che sul prato ha violentato una suora. Per la ragazza che si è chiusa a casa e manco lavora. Per il ragazzo che non torna a casa dopo la scuola. E per la madre che non lo controlla, usiamo la droga. La giustificazione è la giustificazione, e un avvocato strapagato gli darà potere. La giustificazione, sì, la giustificazione, era incapace di intendere e di volere. Yeah, mamma mia.